sì, sto cupo triste. Ciao, Mike. Ciao, Mike. Che ci fa accenderci? Hai su Facebook? Ho messo la credenza stamattina, non l'ho vista. L'hai vista? Ma dove? Su Facebook. Ah, ho capito, Ah, quella tua, bella amica. Bella quella credenza, molto molto bella. Ce l'ha tu. Nemmeno qui di là, magari, proprio quest'anno mi sa aria bassa, molto bassa. Me ne fai a rate. Sì, voi siete una rete, non una rate. Diamo una rete di letto, facciamo un cambio. Perché? Perché non ce l'hanno fatto qua, mi dici, come dove, mi la venga là, di 9 minuti, nessuno ne pulia mai. Ha detto, beh. A me ne vuoi, forse si ripetirà un cacciolo della mamma. Le ho messo lì il tempo di mezz'ora, non finirà manco una. Nuova nuova, niente. Lo so, quando la gente ce l'ha, non ne frega niente. Allora, noi siamo andati con Marina, faccio un giro. Dove era Marina? Seducchio, no? Di fronte a Ossando, facevo di fronte a Ossando, quello che vende tipo mercatino delle pulci. E ce n'era una, voleva? No, comunque lì, no, lì c'era Mondessa, siamo andati nella c'era la piazzetta e c'era lo stesso Mondessa e praticamente me la voleva vendere 10 euro in meno di quella nuova. Sono andata da Conforama e me l'ho comprata. Cioè con 40 euro l'ho comprata nuova, con 50, 50. 40 euro voleva messa, no? Però da lettino. Da lettino, Lo diceva a me, ti mandavo da un amico mio di qua di Proda, Prodaneta, che è grossista. A nome mio è andato te, e ce l'ha dato a Isso, fa 2 cicli, perché è un grossista. Io molta roba la compro direttamente dal grossista. E chi è Grazia? E adesso Angelo si chiama, è di Castelsacco, ma c'è il capannone lì che c'ha mobili, letti, tutto va, fornisce i negozi. Però io lo conosco perché andavo a prendere la roba quando mi mandavo al mio principale a prendere musica. Gliel'avevo chiesto se me la dava anche a me, anche se non avevo il coso per scaricare. E mi ha detto sì che ce l'ha. Sì, ci mi vuoi biglia di me. E ne ho preso di cosa? Ho preso le sedie, il tavolo del salone. Un po' di roba ho preso. Ho capito, Vabbè, nel caso che mi serve qualcosa, già te lo dico, dai. Può comprare lui, per le sedie è un materasso singolo. Io l'ultima volta avevo preso le sedie che c'ho nel salone, e sono in legno, e poi sono pesanti. C'erano da Conforama e cucciavano i rusucchi. Ma ci stavando da Angela, sono andata a mettere su pareggia di modello del buio, cioè campioni noi, se non c'ha campioni lì esposti dentro il capannone, te le fa vedere nel catalogo e te li dà di subito, lì c'ha tutto, c'ha anche i materassi, c'ha tutto va. Ma te li dà subito? E allora, di là subito dalla mano, ti ricarica e ti innanzi. E vabbè, poi ci spiegherai dopo, dai. Grazie, io mi assento un quarto d'ora circa, dai, riprendo subito. Beh, intanto sto facendo una cosa qua con il telefono. Sì, a dopo, ciao. Grazie. Chi? Tu che ti dici? No, sto guardando, sto rispondendo che mi hanno mandato un messaggio al telefono. Mia nipote, adesso la rispondo. Non ti come tiene prima che non si comprende l'accidente, va? Sto rispondendo al telefonino che mia nipote mi ha mandato un messaggio, adesso la rispondo. Ah, io ho capito, no, perché si è sfottato e dunque aveva vissuto col QRM, non si capiva niente. Adesso gli si è arrivato bene. Aspetta che risponda a questo messaggio. Rispondi, rispondi. Beh, Graziano, un romanzo finito dai. Ehi, Giulio. Cos'è, dimenticato di Nivi? No, gli stavo scrivendo il messaggio, perché gli avevo procurato dei mobili nuovi. Gli avevo detto se gli interessava, mi ha detto sì. Prima mi ha detto che va via la macchina e facciata, la poi il furgone di un amico Gioio era in officina. E allora i mobili giù trovati si sono appuccati. E oggi mi viene a domandare, fai paletta. La puoi pure dire, chi te ti arriva male alloggia. Capita, è auguria. Che prima tu me l'hai detto, da non sei citata, ma io baeta. Scusa, se ti interessa, gli dici di una motoretta a 30 euro, vai, gli dici di posti e ti riponi un indietriato. O noi così, se ti interessa. Cazzo, cosa ti riposti? Macchina intanto non vi sa via. Dunque, una moto si pigliava e si sbucciava. Evidentemente non gli interessa abbastanza. Aspetta, le sta creando paletta. Non mi è toccato niente. Tutto fa tutto, ma a me non mi è toccato niente. Non ti pare in questa giudizione. Si pigliava la moto e si sbucciava. Evidentemente noi eravamo così impucciati. Infatti, si vede che era indietrista. Non sapeva da cosa fa, da poi mi ha pensato e stava andando per il posto là e poi si è rimasta fottita, ma cosa ormai non vedono più i mobili. Peggio paeta, allora se ne vuole se ne compareggia. Peggio paeta, ma dici se ne procuri altri fammelo sapere. Ma con i dico se ne buco altri, ma di dica, sono tre di appressai, ma per a voi. Peggio paeta, allora andate questo, se ne vuole se ne compareggia. Buon sale di là, intanto va la pigliato la tredicesima, perché problemi di so. Ma questi erano nuovi lupi. Sì, me li stava dando Luca a me, Luca Flippe. Nuovi lupi. Un soggiorno, il tavolo, le sedie, tutto nuovo. Se lui se li ha cambiati. E la di Savaro mi domanda, dice, mi conosce, mi serve una gatteria. Cazzo, ma lei di chi si può tenere la roba a casa sua e si deve fare un luogo per piantarsi una cosa nuova, cioè, nuova, un altro tipo di mobili. Lei di uno dice, si piace la roba e viene da chi in casa piace di tutti. Faccio paese, cosa vuoi fare? Che ti niente così indecisa, no? Che mi piace fare a me, la verità. Una, o li vuoi o non li vuoi? O sì o no, è utile stare in chili, prima sì, da poi no, da poi sì, torna no, no, anda bene. Se li vuoi, poi stai di figli, non stai in chili a buio all'anima. Non ti devo mantenere la cosa io in casa che non mi interessa. È auguria, hai fatto bene. Hai fatto bene, è grazia. Se mi interessa una cosa mi la piglio subito, noi che rimango, se invece non è che mi piglio una moto, quando mi la piglio e mi si la butto la moto. A me mi interessa un mobile che era uguale alla cucina, ho visto si compra e vende, nuovo nuovo, uguale identico ai mobili che c'è in cucina, la cucina, anche gli sportelli, i pomelli, precisi. Con due cassetti e due sportelli sotto. Fino a che domandate, ma di noi, qui la stazione se ci rubi, la chitarra che ha mini lucido. Mi ne ha regato il nuovo lucido, ma l'ho preso e l'ho messo lì nella veranda. Ci ho buttato quel mobiletto di plastica che c'avevo che faceva schifo. non li voglio appoggiare un dato per essere in bacca. E mi ha messo quel mobile lì, prego. Hai fatto bene, è andato così. Sì, ma è un veloce più vi è andato in realtà. E tu siamo già andato e sta mancando, chi su fa cosa di critami, chi su di viare Porto Torres, quindi viene una vostra carbone. Chi c'è un ladro infinito, la giusta bottezzini di Catrella, di una gatta a 20 anni, è una collina, ma tanto due cicli che andava giù di una collina, la giusta. Se sappia una cosa del genere, manco te ne avrei lasciato di Europa. Adesso le sedi che ci sono, tienitele, no, mi sei, ha già tagliato il buio, molti giri, non me ne ha fatto un cazzo. Cazzo, ma ha fottito, qui sono truffatori. A che cosa te l'avevi imputato? Ma pure a chi se te l'avevi imputato tu? Che su la CP non la vuoi fare, lo sai? Ciao, lo so, è una goliera, si è portata nuova. L'avevo recuperata, una signora malata che gli avevo fatto pulizia nel garage. L'avevo dato una rinfrescata, ma era nuova. L'ho lucidata bene e mi sarà dimenticata, ma poi c'è due cicci in mano quando l'avevo in vita. Che non lo sai che è così? Tu magari se l'ha venduta, dove se l'ha venduta? Però quando compare già ne si sa, se l'ha tenuto due cicci, e poi è così, è sempre stato così. Ma tu sai, io qui pago la luce, pago l'affitto del deposito, che cazzo me ne fuce? E cosa mi ha di pigliare un caffè con un bicchiere in amici e amici? Mi non ha di bisogno, ma lo dicevi che li lascia far regalo. Che cazzo, ma ho trovato a pago. Ma di sesso le sedie, quelle sedie lì. Le avevo portate anche delle sedie, sei sedie. Fa una cosa, vendi se le tieni, sì, sì, girami le guglioni, così mi. La maestra ha pezzi la maricatria, ma non se li tocco più. Allora, il sciopone l'abbiamo fatto a pezzi, tu non l'abbiamo calato. Figurati, se la rinnovo per i catri. Nuova nuova erano, tutte col fondo di legna, alcuni lì ce l'avevano cotturato da buco, lucidata, nuove di zecca, non avevano tutti, tutti in legna, amica. Proprio, non erano sedie quelle fatte in sedie, erano sedie fatte artigianalmente, di quelle alimenti bizzanti, proprio legno pesante. Era giusto così, ma che maraviglia l'ha fatto Maruta, tutta davanti alla gente che vita. No, io mi ha detto, vabbè, dammi le catrine, mi ha detto, non ti dico più. E io ci sono fuori, la sento, ma stessi, in chi mi dai da un rifornitore. La mia abitata l'abbiamo cominciata qui la terra e l'abbiamo fatta a pezzi. Figurati. Così era ma come tu, se ne è andato a carina a mangiare. Ma non gli porto più niente, manco quando io la chissà che è un ladro, che è poco caro via. Io lo so, però se non è cosa buona non ne vuoi. Se non è cosa indiscreta e in buone condizioni non ne vuoi. E fate bene, io mi sono entrato così per curiosità, è una volta, la verità. E vera pure una motoretta, questi motoretti minoretti di Bissini. Mi pare pure a 200 euro per questa motoretta, questa è la piccinetta, da benzina di 6 anni. Vai, viene da uno, si compra e vende una nuova nuova di quelle motorette, 50 euro le rivendete, la batteria, quelle piccoline. Ce n'era una la Cross e una tipo la Vespa. Dopo la via una volta, una Vespa manna va via una volta, buono. Anzi lui una via, due una via, una la bianca e una la grigia. E poi se l'ha venduta naturalmente. Era neppure vedi che si vesti. Io non l'ho mandato, tanto a me non mi interessava, io il moto non facevo andare più. Poi dopo tantissimi anni senza andare in moto. Perciò non mi interessava. Beh che quello si può fare di là senza valuta, quella roba di là. No, ultimamente sono andato da lì su, oggi a Città Mercato, un figo di Mondezza, Vettorra, mi si sono fuggito. E l'altro giorno sono entrato in Città Portobello, una mattessicosa, un righino di tutto Mondezza. che non lo sai, è tutto quanto così, soprattutto qui si vede oggi a Città Mercato. Qui c'è proprio un sottone, tutto vampato, tutto ammutolato, tutto brutto, una cosa quasi bisogna dire chi può entrare. Se non è niente, attento, quando entra dentro ti bigli, tu colera di bigli. No, invece sta mancando, ma la giù, è tutto quanto ben inutile, tutto ben pulito. Solo che va poco lungo, comunque è tutto a posto. Poi se non, bisogna, se non sono oggetti di questi, buoni, in buone condizioni, non ve ne so, sono tutti buoni, uno meglio dell'altro. Ma poi lo fatto sia caro, è un altro discorso. Ehi, è un bel caro, la cosa l'avevo pagata pure un mese, non è di sempre. Ma chi sei, si ti cura di capo, frutti? E poi non li porto più niente, no, ma non manco pare via. Mi faccio la cristalliera e non vai alle rotto. Avete mandato a Portobello, oh, ma io ce l'ho posso mettere 200 euro, 200 euro, era da comprare i gauni, ma... Ma io adesso così, una cosa che dice, intanto che tu si sia pendente, vuol dire non se ne fate niente, oppure ha bisogno assoluto di là. E tanto fatemi che ti pregi così, proprio da una limosina di là, se ne dai. Io non so, qui anche che fatemi così, tutti i canti. Paccare dai. No, ma che sono veloce a Città Mercato, qui sono napoletano, mamma mia, canto il tifoso sui negozi, tutti canti ammutolata la cosa, hai visto bene, è un settore individuo, tutti canti che si vidi, vidi di computer, eccetera, ma ci sono tanti che 3 miliardi che si vidi, tutti canti congolati l'uno all'altro, che paccare dai. Ehi, a che ti qui a Roma, tutta a blocco, ti dici, 4 euro ti do, ma tu farò per darti 4 euro li devi arrivare un cambio di merda. Anche se no ti dici, più di pensiero non ti dà, tu li puoi portare il ventiglio, pensiero, si tanto, e se no ti dici a buttare in vita. Beh, lo so quello così, beh, d'altronde. Vai. Ma lo sai, io che andavo qua con qualche cosa di capace a casa, mi ha buttato io, tipo, a ne cosa, al comune in cui viviamo in teto. Ecco, avanti, non lo fa nulla. E a me non mi interessa, ma se c'è tempo, hanno caricato le cose. Arrasco di palla in carrina. Una volta sono passato da Lanzi e Vilani, da Lanzi alla Ianna, l'ingresso in carrina, mi bisogna stati una ventina di bacconi, di tutti i canti di misuri, e poi Vilani pure degli anni, Berciani, vera, si vede che appartamento che ha smantellato tutto e se l'ha buttato tutto anch'io. E gli ho fatto, no, che dice, se tu riponi lo fuoco, manco lo fuoco ne vuoi, ma chi non la senta, ma sei schifo. Oppure mi hanno trattati da qualche casa di campagna e l'hanno venduti a Eta, chi dice che li ha tutti? Mica ti dici di Gaega a noi, non ti domanda nulla. Ti faccio l'offerta a lui, se ti piace in Italia. Io lo so, qui. Già lo so, realtà che parli così, e vabbè, comunque, vabbè, il negozio è una cosa, non si sa, ma cos'è che è nuova e non è contaminata da nessuno, per carità, Sono contento, quando entri in questo negozio, di chi sta niente, da voi devi stare attento, non toccate la bacia con le mani, mi conti lo colera te mi conti. E poi chi tu? Non lo vedi, va a vendere pure macchine, moto. Adesso non mi ricordo, Gianni me l'ha detto, Gianni. Dice che un amico di Gianni si è comprato una macchina da chi? Adesso è prodotto. Cosa vedi? Oh, che c'è tu sei, grazie. No, amici. Ma se non fa vedi, non ti ha sento. Se fa vedi, non ti sento. No, no. A che mi ha dato dei pari, guardate su stesso. No, ce l'ho qua. Ho detto, Gianni mi aveva detto che un amico tuo si è comprato una macchina da Rubiduccio. Ed è un niente in officina che ci sta comparando la macchina. Ma ti puoi immaginare, ma ti pensi che andare da Rubiduccio a comparare la macchina? Ma quando mai, buh, bisogna sempre più fuori di campo, mi. A preferenza uno andare a Toyota, lo sai che tu mi sono esposto in carriera. Però macchine da 1000 euro, ma in buone condizioni veramente, mi. Uno la vedi, la prima, la prova, ti piace con 1000 euro va la macchina, vai lì, no. Non è ni così tanto difficile, no. Parlo ma con un amico meccanico, io che faccio con una macchina che mi interessa, che mi dai un'occhiata al motore, se tu non ti intendi. E che tu ti dici sì, andare no, da pazzina. Così devi fare. Infatti, beh, imbecille, un amico di Gianni si trovava qui, no? E Gianni me l'aveva detto. E dici che era bella esternamente. Però di motore sempre in ufficina. Buona regia di viaggi di motore. Ci sono i chilometri che va via a buco. Ma è normale, la maggior parte di uno se fa una macchina che cammina bene, che funziona, la puoi stare a Portobello, ma dai, aiuta. Ma che la comparata a Burro, bisogna essere proprio imbecille, andare a Portobello a comprare la macchina. Incredibile, capito? Se uno anda dalla Toyota, ve ne sono tanti, pure macchine manni, non sai cosa vedrà, che è in chiedi, no? Le macchine più manna è più poco butta. A chi? Essendo un bel manna, avevo una bella assicurazione, un bel di bullo e così via. E la matrice poi la bullo fatto di un costume, eccetera. Quindi sono un bel, ma un bel avvero, mi, se tu passi la strada che farei nella Santa Maria, in Chivi, e passi davanti per andare a strada del Bufotorra, e ne vedi poco di macchine esposte, ma vedi avvero, mi, vedi avvero, a pochissimi di là, ma proprio a pochi. Ce lo so, ma anche da Zonino Alto, si andi da Zonino Alto, è pieno di macchine, nuovi, anche alla Citroen. Se vai alla Citroen sali sul terrazzo, è pieno di macchine in buone condizioni. Anche la Renonia nel Piazzale, lì a Predaneta, quelle sono tutte in vendita, quelle che ci sono a Predaneta, la Renonia. Sì, beh sì, sono tutti Milani che sono i concessionari. Ma dici, no, io mi metto, quando sarà due anni fa o tre anni fa, da più o meno, ne aveva pagato una, mio padrino ne aveva pagato, 1000 euro. E lì la metta, mi sono così che funzionava un bebè. La tenta ne manco un mese per venire pulata, boh, non l'ha più avuta. Allora cosa ha fatto? Andate, se l'ha comprata nuova da un ultimo e si è comprata una Seat. Ma se ne trovano un bel di occasioni alle concessionarie. A me, quando la giubilata, chissà mia, chi la puta mi figlia, mi ha detto, perché un amico mio, quello tipo che lavora lì, ha lavorato con me, insieme a me. Lo stavo imparando io, come si faceva a piazzare a fuggire, insomma un paio si fa di lui, davvero fuggire, a chi non mi sappia fare. E lavora in quella concessionaria, e il rivenditore di macchine fa. E me l'ha fatto vedere a macchine, nuovi, a 2-5. Lei dice, no, non li voglio, la voglio nuova, non me ne ha fuggito a me, non li voglio usare. Però nuovi. Sì, io lo so, come ne sono bene, tu so cosa sente. Mi aveva pigliato uno, mi aveva detto. Ma cosa, era che va via prima, aveva avuto un incidente, aveva distrutto, ma tu vai va. Beh, vabbè, dici, va, è andato a vedere, e ha costruito la macchina in chiave. Non sono questa, capì? Ti prendo questa, guarda che con 1000 euro se la porta via, ma davvero. La paetata, le è piaciuta, ma che devo dire che è una nuova roba, sia pure che 30 la macchina, ma non va vero, è la manna, è una macchina manna, se fa il motore, la provi, se l'ha provata, ha fatto un giro umano, l'ha fatto, è tornato, sì, me la prendo, e se l'ha pegata, se la tenta un mese, una cosa così, un mese e mezzo, non di più, venirà ne purata, boh, e non l'ha più avuta. Allora andate, se la comprata nuova, proprio nuova da negozio. Cacca duro di ricipiani di pesci, si dava la massa da in casa e campagna, la cuglia da sta contro la giù. Quindi sono bei questi magari da qui. La tagliata, l'utelaio, la fatta a pesce e se la lampada lo per rubì. Ma se si una navigavano quando travagliavano per rubì, chiusi, macchini, fatta a pesce. Beh, di sicuro, Beh, ce l'ha sempre fatto. Ha mandato su cosa, no, su comprovendo che c'è cose così, no, i giornali hanno computer però. E ha visto questa BMW, una BMW sono una cilindrata abbastanza alta, mi pare che era 2005 cilindrata, una cosa del genere. Ma se tu vedi questa macchina, a parte non vedi nessuna differenza dalla macchina che era esposta in salone nuova a Ghisana, veramente bella, bella bella. Completa di tutto indistintamente, va via. Che se sia cosa moderna che delle macchine di luce. Ed era incontinente questa macchina. Ha mandato l'ufficiolo, ha mandato, era comparata, 8.000 euro in contanti e ne ha regalato la macchina. L'attenta 5 mesi, 6 mesi, una cosa così. La notte quasi, no, ovvero lo canto di un cancello che è troppo alto e tocca la coppa di brutto e traghiamo la carriera. Domani dice la sistemiamo, perché se tocca la coppa di brutto e faccia la macchina. Lucas ha voluto la tagata in carriera o grazia. E cosa è successo? Che sono passate delle balocche e verranno incendiata. E ha bruciato la macchina sua e la macchina che viene a fianco. E ha dovuto pagare pure la macchina che viene a fianco, così tutto. Mia paesa, paga per denni a compra e vendo sata. C'è un pubblico come quello che ho pagato il cospiccicato, panini civili, due cassetti e due scostini. 300 euro le vendenni. Vedi, mobile, arte e povera, tinta e fura di gatto. È nuovo, come se io ci vado a pigliare due. Però qui ci vuole 300 euro. Ognuno va a trovare il suo. Tu l'hai pagato 300 euro, sei stato fortunato alla villa. Magari la mai capita a casa, se la mia abitante era arrivato probabilmente, era poi non l'ha mai avuto. Bisogna andare pure l'occasione che ci sono. Alle volte ci sono queste occasioni che è possibile fare. Se paghi su, io ho avuto un pianforte una volta, chi della vendenni 150 euro, ma se tu vedi che dobbiamo posto hai fatto che tu se tu se lo portano per un bicio qui ha preso hanno messo il guadagno al doppio di canto lo paghi, ma è dici no. Poi naturalmente bisogna vedere se funzionava bene e tu ha detto no funziona perfettamente ed era lì su di coso era quanto si chiama prima che fila a un certo mercato prima di venire al mastro non veda che sono napoletano, vedo al mastro ma adesso va a vedere il parecchio tempo va, ma da un bel di tempo però me e veda che tu abbiamo forse tu devi dire cantinamento o grazia 150 euro se non credete, se lo buttate da Marcello ha preso, si pagava più di canto buttavano via una volta in chiesa. Cazzo di te ma che è uguale spiccicata a quello che ho preso io. Abbiamo pensato di dire di dici e salute capo se la vuoi. Innanzitutto usata a seconda mano così quel prezzo non lo venderà mai, se non li pigliano in tutto. E mi ha pigliato questi cuscini, penso io, perché è sempre usato e. È un gioco, ma è così, purtroppo è così. E cosa vuoi fare? Vabbè, ma che succede a Badene tu se sei un privato? Tu invece da che l'hai abbigliato, non l'hai abbigliato, è un privato, no? Ehi, l'ho preso da una signora, è un privato, l'ha cambiato. Una certa mia, un altro tipo moderno. E lei c'aveva la cucina come c'è lui. Arte povera, tutta fatta a mano, su misura. Chissà me l'aveva fatta a Zantona, però il problema l'ha fatta a Zantona. È possibilissimo, poco cosa, se è preciso, magari l'ha fatta la materia sua legnaveria, no? se la mettessi qua legna media che hanno fatto e non per la meravigliarsi. E vabbè, c'è stato popolato, è un sapere, non è stato sbattendo io, chi tanto invece non sono stato sbattendo io e ne ho 300, ecco che è la differenza tra una bassona e l'altra. Vabbè, sei stato fortunato, te lo giro. A proposito, te lo sai, anche in applicazioni Midland, anche te vuoi dire canali, l'hanno buttato a 100 km va, non più a 30, vai a 100 km. L'ho visto stamattina che l'ho acceso e mi è apparso. Oh, quella scritta tutto qua. Ma inizia Graziano, dovete un posto. Sì, sì. Ciao fra. Oh, stamattina, quando... Per carità. Qua. E stava ascoltando. Grazia, esci da fuori, la dritta lo posto, che non ti intendi Branco, è entrato Branco qua. Avanti Grazia, poi da piombo, che buccia. Ehi, non lo so se mi sente, perché sono con l'antennino. Ciao Franco, se mi senti. No, t'ha inteso, se non sta mai già subito di punto. Ciao Fra. E allora? Ciao Giulio. Pensavo che non mi ascoltavi, che c'era Graziano in modulazione. No, se ti l'hai ammazzato, dai, cosa mi senti? No, a me arriva con un po' di quarrenni, perché ogni tanto si sposta, a momenti arriva bene pulito, e in certi momenti mi arriva con un po' di QRM, perché ti puoi immaginare, è logico, lì da te non ci arriva. Graziano ha sempre avuto questo problema, evidentemente nella posizione dove abita lui, arrivare lì da te è un po' difficile le viene, mentre invece per la mente c'è lo spiraglio giusto e dunque va bene. Infatti, vabbè, Graziano perché non se lo vuole mettere il problema, se no gli lasci dubbio bene. Perché a volte ci sono, parecchie volte lo ascoltavo molto, molto, molto meglio, lo ascoltavo benissimo. E invece da un periodo in questa parte non lo ascolto più. E adesso mi senti, Franco? No, non ti intendo, non mi accava. Ha chiesto, adesso mi senti, Franco, l'ha detto Graziano. Ci vedi che sei buttato, che cosa fa? Alza, ti si mette la banca, grazie, poi ti mette la banca, poi ti impedi, dritto. E così ti intende, Franco? E io lo sento bene bene a lui, da qua. No, sono sempre in cucina, in veranda non vesci il bel freddo. Beh, lo so, in veranda non vesci, no. Già lo grido per freddo, senti che per freddo. Già lo grido. No, Franco, è un Franco esce benissimo, anche non lo sai. E capita. Problemi bisogno, non mi ha mai avuto problemi Franco. Io con Franco, come ti chiamo, da una camera all'altra, anzi no, siamo usati la stessa camera, quasi la stessa cadria. Non l'hai sentito, me lo fa. No, negativo, non lo ascolto per niente. Niente, niente, niente. E noi due non ne abbiamo problemi, perché siamo in linea d'aria, siamo, cioè, se è possibile, dividimmo. Eppure lo sento chiaro, chiaro, anche più forte da qua. Franco, non mi senti? Non ti ha sentito, dai, se no sta mai subito di punto. Senti che si intende, ciaro, ciaro, bra. Si è spostato, no? Evidentemente non ha trovato la posizione giusta. Ha giudito la statistica, è andata alla banca, grazie, è andata alla banca, boh, dritto, in piedi. È andata a chiamare lampadario, usciamo sempre un altro, e il lampadario di base dell'antenna. Beh, andava così, fra. Cappa, Graziano è come ti chiedo che va di denaro e non li tratta. Magna è già messo tali bonti. Allora, allora cos'è? Graziano è Mandroni, cosa di questa l'ha pulito l'antennino, invece ha considerato che poi la posizione, nonostante che stasi in atto, ma che è l'ultimo piano tra l'altro, mire, dunque dipende pure da me. Non riesce a comprendere per che motivo ancora non ha pensato a pulire l'antennino. Capita. Fa così, Graziano, pone l'antennino, non manco ti intendi pure Franco. Grazie. Vabbè. È quello che volevo dire, no? È come avere, c'ha le antenne e non le usa. È come te chiedo i paresinani e non mangia per risparmiare. Infatti, è come te paresinani, non ti dire come te non avvili, siamo a te sicuro. Se uno, grazie, se uno parla di là e non intendi, è come te che non va, c'è la stessa cosa, non c'è un po' niente. Anzi, c'è da denunziare, perché se non ti muovi in circolazione lo Stato non le vede più. Dunque c'è da denunziare pure. Beh, andrà così. Sono al telefono! E lui! Adesso la volta lei da inteso! Ma ti si chiama il telefono! Se compare al telefono, grazie, che siamo franco di... Ah, ti ha inteso basso basso! Oh, yeah. Vabbè, dai! Riprendi, fra, che hai il telefono, grazie! Vedi, adesso che lo sentivo, qua se n'è andato! Beh, va bene, dai! Ecco cosa ci vuoi fare! Oh, e lì come veniva a mettere un'antenna, ma guarda quando vedo l'antenna, me la ritengo, pare che anche 2 anni che verrà. E forse è buono di più, è vera sì l'antenna, ma non l'ho mai piazzato, è Mandroni, non vuol dire va, è Mandroni, è pari sua che non l'ha piazzato, cosa le costerà? Allora cos'è? Che la moglie gli vuole dare lo sfratto, gli vuole dare, e dunque non deve piazzare il baracchino in casa. Infatti la 27, ma cos'è che la stai di bocco? Ma che se dici che devi stare attaccando e ciacchini? Ma che la moglie l'ha detto, sia dove la capisce, la meglio di essere buona, è della battomiera della Mondezza. Va, se buona la battomiera della Mondezza. No, è roba un angurino, gai, che non dà di fastidio, un angurino, è il frutto d'inghiezzo. A me mi pare che hai detto che no, è quanti dici, che è un abbassolo di malassento, così si dice, non vuoi tassassari, è che non è capace di andare fissa in una posizione in di funzionare. Boh, non lo so qui, a vai telefonendo, a vai innamorendo, dimmi, al telefono. Morene, oi oi, ma che abbiate innamorato, vedo. vabbè, grazie, io finita lei, c'ha telefonata, che è Pittina. Ma che stasera in 27 tra 21, ti ho portato una rubrica, fra, di tutti quanti, di GP, di Sassaresi, chi si sente, vi sono tutti, vi sono, tutti, come te, da Gianluca de Bucciotorra, Sandro, Natalino, Roberto Quadrato, anche dopo tutti, Graziano, tutti bisogno, il nome d'oio, Luismo Ecco, eccetera, no? Vedo pure la rubrica, quella rubrica completa, tutti ce ne sono di Sassari, poi c'è Lacchi, deve essere cosa, deve essere, che tu camionista, deve essere Pulvento, deve essere. E poi c'è un amico che non è stato mai appassionato di baracchino e tu pure sei iscritto perché un sacco di gente proprio tutti sono in rubrica però nessuno ne fa vita. Ne ho visto un bel anche io. Lacchi è fortunato. È fortunato, quello volevo dire, è lui, sì, non mi ricordavo il nome. Sì, infatti almeno fortunato la sera quando rientrava, che eravamo a baracchino, entrava per salutare. Anche perché penso che abiti dalle mie parti così, non lo so se è a San Giovanni o Ottava, da queste parti sicuramente. E entrava tutte le sere a salutare. Non l'ho più sentito, né a lui né a nessun camionista, boh, tutti pariti. Naturalmente, o se l'hanno tolto, perché adesso ci sono certi principali che hanno fatto togliere tutti i baracchini dai camion, hanno fatto togliere. Non so per che cosa, però li hanno fatti togliere. No, comunque 27 ci sono, c'è Tore, c'è Gio Maria e un altro mi sembra che ci sia. Non lo so, adesso forse... No, sul 23 non c'è nessuno. Sul 23 non c'è nessuno. A meno che non hanno cambiato canale. Ma sul 23... Ah no, aspetta, è per questa. Io non lo so. Io sono a 55, sono con il 52. Aspetta, vedi. Ecco, sì, ci sono. forse già potevo sentire io, sì. Era a 27.55, canale 52, ma forse non intendia. Se tu metti altra frequenza è ovvio che non li senti. Ci sono io, 27.255, ci sono. Sì, adesso li sto ascoltando. Pensavo che l'avevo sintonizzato bene, invece no, perché avevo messo a sintonia continua, l'avevo messo e dunque, perché stavo ascoltando in 40 metri, poi ho preso l'altro sistema, ho utilizzato l'altro sistema, anziché essere quello già canalizzato, capito? E avevo sbagliato frequenza, avevo messo 27.555, è un bello l'intendia, che si corrisponde al canale 52, si può immaginare. No, 55, 27, 555, quello lì è dove andiamo lì a parlare, a fare pietre da fuori, dai, di ex. Appunto, è sbagliato, io ho messo lì, infatti ho messo lì io, ero in ascolto sempre lì, per quello avevo sbagliato frequenza, capito? Mentre invece se avevo utilizzato la versione canalizzata, quella va, perché ce li ho registrati dall'1 sino al canale 75, che arriviamo sino a 28 e circa, dai, a 27.800, una cosa del genere. Invece poi avevo cambiato e avevo messo i 40 metri e ho sintonizzato la 27 a sintonia continua, no? Senza canalizzarla, capito? Ecco perché ho sbagliato la frequenza. Come ce li avevo io quando avevo 4,40? Avevo tutti memorizzati, ce li avevo. Schiacciavo e mi usciva direttamente il canale. Appunto, è così che ce li ho. Io ce li ho così, dall'1 sino al 75. E c'è tutta la 27 dove posso parlare. Poi inizia ad arrivare a 28 e allora lì siamo già in 10 metri e non l'avevo sintonizzato. Poi dato invece mi avevo sintonizzato i 40 metri a partire dai 7.060, una cosa così, 65, 70, 75, 80 e così via, sino a 145. Avevo messo così, solo che alle volte sono magari anziché 145, sono 142, 143, allora metto la sintonia continua e li trovo sempre, no? Sì, quello sì. Guarda, questo non lo so, se ce l'ha i canali memorizzabili, la memoria, non lo so, non ho mai provato questo qua. Però non penso che ce li abbia. Ma non lo so, non lo conosco io, sì, 80 io non lo conosco, per cui non te lo so dire. Poi ho dei canali che sono addirittura con lo split, e cioè parlo in un canale e ascolto in un'altra frequenza, capito? Ci sono quelli anche, ma non mi interessano quelli, non mi interessa assolutamente. Va bene. No, ripeto, ritornando al discorso che avevamo ieri, 4,40 è una bella radio completa, dai. Peccato che ci mancano i 6 metri, ma tanto non per mai nessuno i 6 metri, per cui cosa te ne vai in 50 mega? Ma, guarda, io ce l'ho un mediani, ce l'ho tanto, e ti dico che in quelle bande se ho sentito 2-3 volte qualcuno che andavano per fare prove e basta. Sì, perché quella lì è una frequenza che gli è stata assegnata agli amatori da alcuni anni a questa parte a titolo di sperimentazione, per cui la gente magari va lì a fare esperimenti, no? Niente di più, però bimoni dell'antennone, bimoni delle direttive o cosa vuoi che sia, e 6 metri la lunghezza d'onda è corta e ci vogliono delle antenne un pochino sofisticate se vuoi sentire bene, se no non sento mai niente, difficilmente. Scusa un attimo, non mi è arrivata la telefonata. Ok, intanto io vado in un posto, rientro subito. Giulio? Sì, sono qua a Ofla. Ehi, cappa, dai, sono qua. La mia azienda, Vabbè, poi Giambaffo ha ragione, i problemi non ce ne sono. E stavo dicendo, hanno mandato la pubblicità sull'applicazione per per pubblicizzare il microfono, no? Dicendo che hanno messo 5 canali in più, hanno messo e che la distanza ormai si arriva a 100 km. Ma magari chi va a vedere un gittadino, non è più nessuno, manco camionisti, qualcuno così, ma sporadicamente. Stasera sono passato 4-5 volte su quella versione lì, non c'era nessuno, sempre solo sui gruppi c'era gente, ma nella versione canalizzata non vedo nessuno. Sì, Giulio, non c'è nessuno, perché non c'è nessuno qua che modula lì, capito? C'è qualcuno all'ascolto, rimane, a volte ci sono i soliti, nel canale 1, però se tu vuoi fare un canale come il 23 qua, tanto quando entri o ti metti d'accordo, e quando uno deve entrare si mettono d'accordo un gruppetto e di entrare quando capita di avvisare, allora sì, però così come fai? Infatti quello è un... non so, quello che dico. Anche Claudio è diventato bandito, il 27 non so, vabbè, ha ragione, se non c'entra nessuno cosa stai a fare? Lui poi soprattutto che ha la possibilità di andare in altre frequenze, figurati se si deve fermare in 27, è chiaro che si stanca la persona, se va bene nessuno fa bene che se ne va in altre frequenze, almeno ascolta e parla lì se vuole. Ma la 27 è muta, è proprio morta, non c'è più niente da fare. Poi con questa applicazione adesso è ancora peggio, guarda. È ancora peggio, sono sicuro che anche quella contribuisce a far dimenticare il baracchino. Ma non penso però, non penso, perché il baracchino è sempre, cioè per l'applicazione io preferisco parlare qua, nella radio qua, per dire. Però anche se quella là è una lunga distanza che prendi, senza, non ha bisogno di lineari, non c'è bisogno di niente, e non c'è QRM, non c'è niente, e ascolti al 100%, mentre qua purtroppo ci vuole un lineare, devi a volte c'è il QRM e non senti quello più basso, non lo senti, non lo ascolti bene, e solo quello è il motivo. Però per vicinanza così, per 100 metri, ma 100 metri, per 100 metri, oppure 30 metri, cosa sto dicendo, 3 chilometri, quanto era, 3 chilometri o 100 chilometri, basta questo, basta. Sì, quando sì, 30 chilometri o 100 chilometri, sì, adesso è a 100, per cui... Però il discorso è sempre quello, qui ormai non c'è più gente che ha passione per la radio come una volta, e allora non possiamo sentire. Però ho notato che anche il continente, se tu guardi bene la mappa, quando trasmettono, non è che trasmettono tutti quanti da un stesso posto, sono tutti quanti sparpagliati per l'Italia, il che significa che la condizione è uguale a questa di qua, non è più né meno. Ce ne sono raffreddati un po' tutti, dai, anche fuori. Sì, magari in estate può darsi che quando c'è propagazione qualcuno si sente là, come abbiamo sentito quest'estate appena passata, ma bisogna vedere se continua adesso la passione. Guarda, io ho visto nella mappa ho visto, sono andato lì al CH e ho visto nella mappa in continente che ci sono tanti gruppi, ci sono, che parlano col baracchino, parlano, tanti gruppi. E quelli che parlano col... io sto parlando di quelli che parlano col coso, col microfono, quelli c'hanno il baracchino, c'hanno. A me ok, non lo stanno usando senza il baracchino, solo col telefono. Però ce ne sono tanti che hanno il baracchino. Beh, sicuramente ci sono i camionisti che hanno il baracchino, questo non ci sono dubbi, ci sono senz'altro. Solo che a quanto sembra non sono più numerosi come una volta parlando. Adesso magari con questa nuova applicazione perché la Midland ha fatto che questo microfono si può attaccare solo sugli apparecchi Midland, cioè sui baracchini Midland, o a 4 punte o a 6 punte, per dire, il microfono. Perché la Midland stessa si è resa conto che ormai la CB a livello di baracchino era finita, ormai era finita, e dunque si sono resi conto che non stavano più vendendo, e allora hanno inventato questo sistema in modo che loro possano vendere, perché sicuramente adesso vendono baracchini e vendono anche microfoni, non ci sono dubbi. Ehi, cappa, sai cosa hanno detto quell'amministratore, quello Gianni, mi sembra che si chiama, sì, cosa ha detto? Chi c'ha un 48 Midland, un 48 dei primi modelli, mi stai attento come, a quanto va, quello vale una barca di soldi, ha detto che vale, quello lì, il primo 48 che hanno fatto. Beh sì, tutti i baracchini vintage, se tu guardi ci sono tante baracchini in vendita, proprio di quelli vintage che costano un bel po', naturalmente quelli buoni, non il garraggio, è ovvio, però per dirti, no, costano quante quello nuovo e in certi casi anche di più. Perché ci sono quegli appassionati che le piacciono e se li comprano. A me mi piacerebbe ad esempio i Galaxy, i Gary Crawford, i baracchini così antichi, di quelli tipo, soprattutto quelli originari americani, quelli sono favolosi, sono bellissimi. Ci sono certi baracchini che hanno certi Smith, ragazzi, sta grandi, belli, e sono meravigliosi, ma proprio belli. Oltre a essere, sì, solo il problema è che hanno magari solo 23 canali, ecco qual è il problema. Vabbè, quello sì. Vabbè, intanto più del 23 qua non si usa. E ti va bene. Ah sì, questo sì, per noi già andrebbe bene ugualmente. È utile avere 400 canali che non serve a niente. Io ce l'ho un baracchino Midland che è di 400 canali, per dire, no, anzi addirittura 400, io ho 400 per ogni banda, sono, mi sembra, 10 bande, 400 canali sono, dai, perché sono 40 canali per ogni banda, perché ci sono quelli stranieri per l'Inghilterra, per la Spagna, per la Germania, eccetera eccetera, no, praticamente ci sono 400 canali, perché ci sono 40 canali per ogni banda straniera anche, per cui se vuoi immaginare, fa FM e AM, basta, niente banda laterale, è un 78 Alan Plus, Alan Midland Plus 78, che oggi lo trovi anche a 100 euro, 110 euro nuovo. Giulio! Mi sembra che verso prima di metà anno, forse a luglio o agosto, mi sembra che sono andato, e da a Serraseca alla GBC, e stavo prendendo quelle, allora 48 stavo prendendo degli ultimi modelli che hanno fatto, e quelle buria, una barca di denaro, 200 euro buria. Aspetta, costa 170 euro, l'ho giocato su internet, adesso me l'ho ripulso, guarda che internet dice entriamo anche noi, mi. E tanto si entra a domare, è giocato di qua, si è mezzo andato. E infatti, ma tu me, e una volta io sono andato lì e avevo chiesto se aveva la mantova, la mantova a tubo. Ma rispondo, perché non lo sai che la Sigma non le sta facendo più antenne, e quelle antenne non si trovano più. Ho fatto, sì, tu hai ragione che la Midland non le sta facendo più, però antenne quante ne vuoi, ti ho detto, quante ne vuoi che te li ordino io e te le faccio arrivare un camion qua di Mantova Turbo. Io sto parlando già di 4 anni fa, una cosa del genere, o forse anche 5. Capitano se c'è parla la Mantova Turbo, ma usa callare. Adesso, cosa ho fatto? Ho fatto la telefonata e l'avevo fatta arrivare da cosa? Da Collegno, vicino a Torino, là, da quella zona lì. Sì, Collegno, lì l'ho presa anche io, la Mantova Turbo. Appunto, per dire, no, si che vedi bene, Sì, no, lo sa che non ce ne sono più di quelle. A te chi l'ha detto che non ci sono più? Ce ne trovano quanto ne vogliamo in continente. No, non se ne trovano più perché non le stanno più costruendo. Ma quanto ne vuoi la giovata? Quanto ne vuoi che te li ordino io? Eh? E quando ti arrivano li paghi, se no li pago io se non arrivano. Bene, va. Gatto, vai, vai, e chi c'ha di un buco l'ha giudito? Com'è poco feo, gatto, tutto un binghiloso è quello lì, tutto quanto disgraziato, con quei capelli, gatto. Poi non parliamo del negozio, parlo di un gettito, parlo. Viene poco di cose a mezzo di bisi, per carità, Tonino, quasi chi può fare, gatto? Sì, perché quando gli arrivano i pacchi, non sta lì, non c'è la persona che li rimette a posto, i sistemi, e gruppo per gruppo. Infatti quando dicono una cosa, c'è anche drone di genere, a chi non la ciappa, a chi non sa mancare nella busta. Infatti, un giorno sono andato, io e Stefano Principe, sono andato e abbiamo comprato due filotti per l'ingresso del microfono del 440, perché volevo io abbinare l'MB più 4 al 440, no? E infatti poi l'ho fatto. E ne voleva due Stefano, e uno ne volevo io, e non venne l'altro, solo due ne aveva. E poi tra l'altro Stefano ha detto, vabbè, una te una a me allora, dai, così almeno ce l'abbiamo tutti e due. E poi se la fate pagare, mi pare 3,50 € l'uno, quando costano 1,50 € massimo, non di più. È un bastardo quello lì, fa carità. E quando vedi tu le cose che non ti quadrano, basta lasciare la roba. Perché io per prendere il collettore, queste cose qua, vado sempre da Coso, vado a Fusaro. Vado sempre lì. Quando devo prendere qualche cosa, il bagu è, addirittura Fusaro, secondo cosa prendi te la lascia anche di meno, come ha fatto col cavo. Ho preso il cavo lì, ho preso la, come si chiama, quello buono, ma vado me la metto su rigido, ha giubilato lì su, e mi ha fatto anche lo sconto, mi ha fatto, perché lo sta dando a 4 € e me l'ha lasciato a 3,50. Quale cavo stai parlando? La Camille. Io avevo preso la Camille, quello è rigido lo stesso, il coso centrale, no? È unico, non è a filettini, è tutto un filo unico, grosso. Infatti entra dentro il PL, non c'è bisogno nemmeno di saldarlo, ma che senta, io preciso dentro al PL, il polocardo, no? E l'avevo pagato a 62 €, sì, 62 € e 50, ed erano esattamente 25 metri, 62 € aveva pagato. Mi sembra che veniva 2,50 per la Camille, proprio quello originale, Belten, proprio quello, proprio la Camille era, sì, è la Camille, e che lo sto usando su questa radio che sto parlando. Quella la sto usando qua, la sto usando. E me l'ha data a 3,50 me l'ha dato. Mentre da fuori mi veniva di più, mi veniva. Lui ci aveva 4 € e mi ha detto, te la lascio qua a 3,50. E l'ha preso la stessa, tanto la devi ubriacare lo stesso. Te l'ha fatto pagare caro, che io l'ho pagato a 2,50, non a 3,50. Solo che magari non ce n'è l'altro e l'ha voluto, perché tanta gente gliel'aveva chiesto quel cavo, infatti io avevo aspettato che arrivassero, poi quando è arrivato poi me l'ha fatto pagare a 2,50 quello Antonello, perché l'ha misurato lui, anzi l'avevo chiesto a signora Giovanna, adesso purtroppo signora Giovanna è anche morta, ma io l'ho comprato, saranno 2-3 anni fa, no, di più, no, saranno anche 4 anni fa, sì, perché l'avevo piazzato nella Mantova Turbo, l'avevo piazzato la Camille, perché l'avevo preso quello, perché ha una schermatura a 100%, a cosa serve la schermatura? Se passa il cavo dell'apparecchino, che passa vicino al cavo della TV, potrebbe interferire, invece in questo, essendo schermato a 100%, va benissimo, capito? Ehi, capo, mi sto guardando su internet a vedere. Sì, su internet lo stesso, mi sembra che costava a quando l'ho comprato io, però non adesso, quando l'ho comprato io, anni fa, costava mi sembra 2,25-2,30. E io avevo comprato qui a Sassa, i 2,50, arrivato, siamo lì. Perché ero intenzionato addirittura a ordinarlo fuori, poi invece ho visto che c'era pochissima differenza, fatevi tanto fare comprarlo lì, per pochi centesimi di differenza a metro, lo compro lì e basta. Ed è il Belden, la marca, c'è anche scritto sopra, è originale, proprio quello originalissimo, doppia schermatura, doppia, ed è grosso 10 mm e 5, 10 e mezzo praticamente, dai, un centimetro e 5 e 5. Non riesco a trovarlo, 155 c'è, vabbè, quello è matassa, 34 euro, no, questa è la matassetta, non riesco a trovarlo, eccolo qua, a 3,60 invece, 3,60 al metro. Ho capito, mi senti qua? Sì, sì. Ok. Mi è sparita la frequenza dal coso, adesso forse la batteria è scarica e non ce la fa. Si è scaricata la batteria? Sì. No, perché ho visto che mi è sparita la frequenza, mi è sparita. Passa la 27. Adesso lo rimetto a caricare. Mettila a caricare, passa la 27. E infatti ti stavo chiamando la 27, forse hai il volume basso tu. Sì, l'ho collegato adesso.